conto che effettivamente io non lo facevo da parecchio. Eccomi qua, che mi ritrovo a contemplare la mia immagine simmetrica e precisamente speculare chiusa nello specchio. Passano i giorni e gira la la la la la la la la la la giostra del tempo, poco a poco se ne vola ogni momento. Eccomi qua, mi rendo conto che effettivamente io non lo facevo da parecchio. Eccomi qua, che sto cercando di capire se mi rassomiglia ancora la figura che io vedo tra i contorni dello specchio. Passano i giorni e gira la la la la la la la la la giostra del tempo, poco a poco se ne vola ogni momento. Il tempo ogni giorno ci ruba un po' di tempo, lascia i segni sul viso e sulle mani ed io mi ritrovo perplesso a guardare me stesso in quel mondo riflesso nello specchio. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ma per fortuna c'è la musica che sa tenere sempre il cuore a tempo. La musica che ci accompagna, che ci fa cantare, stare in movimento. Passano i giorni e gira la la la la la la la la la giostra del tempo, poco a poco se ne